Mario Sartori. Vediamo un po', io devo parlare lì o può parlare qui? Sì, dice subito nome, cognome, il dottore Vieni. Luigi Sartori, vengo da Padova, ma sono anche membro dell'Istituto di Scienze Religiose di Trento che organizza questo convegno. Parlo per primo solo perché sono stato quasi provocato, spinto a destra. Lo faccio con semplicità. Intanto dico con la mia ammirazione per le tue relazioni che hanno veramente molto ben introdotto il convegno. Anche se sono generiche, hanno affrontato il concilio da due punti di vista non analitici, anche la seconda, pur essendo ecumenica, ha trattato globalmente di come il concilio è nella prospettiva ecumenica. Allora il mio interesse che è teologico, e in questo momento anche un interesse di riflessione fondamentale. Le due relazioni dunque chiedono una specie non solo di compresenza, ma di alimento reciproco e di riscoprimento di un terreno comune. La domanda che io farei a me, che sono appassionato di ecumenismo e quindi interessa il professor Verkrois, è questa come problema. La improvvisa e celere prospettiva ecumenica che prende in considerazione in pochi testi, in pochi momenti, anche testi storici del passato, introduce il problema di un suo utile, profondo agganciamento con il metodo storico critico. Si ha l'impressione che l'ecumenista, come del resto il teologo, prenda i testi del passato per quello che suonano o non suonano nell'oggi. È preoccupata della loro risonanza di oggi e della loro immissione nel futuro. La mia domanda è, mi sembra che sia ancora scarsa nell'utilizzo ecumenico l'attenzione a rispettare la storicità dei testi, però c'è un motivo che legittima questo discorso. Per me, lo dico subito, e vale questa mia riflessione anche per il metodo storico critico, storico in generale, degli storiografi, per me è l'esuberanza intrinseca di ogni parola umana e di ogni evento umano che di sua natura è più di quello che è eccedente, soprattutto naturalmente nei suoi effetti, ma anche in se stesso. Non è soltanto la parola poetica, artistica, che è trascendente al limite della sua immediata concretezza storica, ma ogni evento umano, l'uomo più di se stesso, ogni parola. Allora, da questo punto di vista, credo che sia legittimo che anche prospettive che apparentemente vanno al di là, crescendono, abbiamo sentito di parlare di rirecezione, di rielaborazione, di reintegrazione. Hanno diritto queste scienze, queste prospettive, ad affrontare anche testi che chiederebbero invece di essere lasciati nella loro nuda identità, potrei dire povertà. Ecco la mia riflessione. Questo è stato scoperto già nel momento biblico. La critica storica dei testi biblici ha superato quell'angustia di isolarli, di puntualizzarli e ne ha verificato la trascendente ricchezza. Però ecco la differenza, per me fondamentale nella cultura di oggi. Per arrivare a questo, l'ermeneutica biblica ha dovuto fare un riferimento all'autore divino. È perché c'è Dio dentro questi testi che ha dato questo, ci ha dato in mano, che c'è questa trascendenza che legittima questo esuberante ritorno per reinterpretarli e vederne l'indefinita inesauribilità. Ma per me oggi, con i dati dell'antropologia acquisiti anche nel concilio e nella psicologia nostra, anche l'uomo ha mistero, anche l'uomo ha una trascendenza. Per cui è legittimo questo discorso. Questo l'ho detto in prospettiva teologica, partendo più dalla teologia ecumenica, nel modo con cui è. I testi del passato, anche i più autorevoli, ma io ritengo che possa e debba valere, ma qui sono inesperto, anche dal punto di vista storiografico. Lo storico deve aprirsi, come abbiamo sentito, alle molte interpretazioni, ma non con una rassegnazione riguardante la limitatezza dello storico, dell'utilizzo delle fonti, ma con una prospettiva più fiduciosa che trae motivo da questa quasi fiducia o fede, se volete, nella trascendenza inesauribile del dato umano. Questo è il mio discorso, il mero contributo alla ricerca di un terreno comune, più sotto, se volete, più sopra, di due prospettive globali, le quali però mettono in evidenza il bisogno di un rapporto. Una domandina per il professor Alberico, e del resto anche il professor ha dato ragione, c'è stata una deificazione del Tridentino, come dire, da quel momento tutto parte, il prima, il dopo, parte tutto da quello. La mia domanda è questa: non c'è sempre il rischio per ogni confessione cristiana di avere un mondo di... I miei fratelli protestanti partono dai loro testi simbolici, non vanno indietro, adesso molti recuperano la tradizione, in parte, non parliamo della Bibbia, è chiaro. Ma c'è questa tendenza, anche noi cattolici, io che sono difensore, innamorato del Vaticano II, sento il rischio di dire che tutto parte dal Vaticano II. Come tutto partiva da Trento, così sempre anche oggi tutti devono partire dal Vaticano II. Probabilmente mancano di senso critico. Ecco una mia prospettiva, è un interrogativo. Grazie. Grazie, professor Toni. Chi altro vuole intervenire? No, mi prendo per provenienza. Sì, chiamo Kindler, tedesco, vengo da Germania e abito a Trallen vicino a Norimberga. Ho solamente una piccola domanda. Grazie per le due lezioni. Ha ragione Giuseppe Alberico, che ha sottolineato che sono tre periodi, tre papi, io vorrei dire anche tre generazioni di legati. Ma la mia domanda è questa: il Tridentino non fu un concilio del conciliarismo, e sempre i legati hanno avuto una buona relazione con Roma, e alcuni dicevano qui a Trento il Spirito Divino viene con la posta di Roma, lei sa che i protestanti erano al via di venire qui, ma un concilio che fu così legato col papato sarebbe non utile per la conciliazione in questo periodo. Io penso che in Germania la tradizione del conciliarismo fu più vivace che in Italia, ma in Italia il conciliarismo fu morto dopo il conciliabolo di Pisa nel 1511. Ha ragione che lei sa solo tre periodi, tre papi, tre curie romane, eccetera, eccetera, ma sempre fu un concilio legato strettamente col Papa. Nella magazzina della facoltà teologica di Napoli. Ringrazio i due relatori che conosco da molti anni, abbiamo discusso tante volte di questi problemi e anche ringrazio Don Sartori con cui abbiamo collaborato per oltre 35 anni proprio del Concilio, durante prima e dopo e sempre anche nel cambio di meglio. Sono pienamente d'accordo quando diceva Don Sartori sulla ineffabilità e sulla immensa ricchezza della parola di Dio, delle formule anche di un concilio e della parola umana. Però forse farei una certa distinzione, una certa graduazione, perché anche la rivelazione è incarnata in una parola umana. Però c'è un fondamento che ha una sua pregnanza che non può essere mai esaurita, non può essere mai espressa in maniera esaustiva ed è aperta a tutte, non soltanto le integrazioni, ma l'integrazione nuova del dogma in determinati periodi. Ora, i due storici ci hanno fatto ben vedere quella che è stata la situazione del momento di partenza e quindi del Cinquecento, l'evoluzione di questi quattro secoli e poi per Royce ci ha fatto vedere in modo particolare quella che è stata la recezione, quello che è stato lo sforzo di formulazione e di accordo che ha trovato la sua, direi così, concentrazione nel problema della giustificazione. Però io penserei che sarebbe necessario e indispensabile la piattaforma di quello che si intendeva per giustificazione e quelle che erano le visuali della giustificazione nel momento in cui c'è venuta la frattura, ci sono state queste contestazioni, queste formulazioni del Tridentino nei limiti della teologia del tempo, nei limiti delle persone, eccetera. Mi sono occupato qui presso De Rosa, era presente, dello travaglio di Serripanto proprio nel problema della giustificazione, come fu contraddetto, mentre aveva avuto degli spunti meravigliosi di quelle esigenze che nell'ambito stesso della formulazione di Lutero e degli altri erano aperte veramente a una integrazione fortissima, che se fossero state accolte forse avremmo anche dato uno spunto ecumenico maggiore. Però ecco la mia domanda, mi pare che si possa fare un gap, cioè un tagliamento tra il Cinquecento e il momento attuale. Se prendessimo come base di accordo o di concordia il Vaticano II, e quei quattro secoli non possono essere distaccati. Quei quattro secoli di recessione, sia pure unilaterale, e qui sono d'accordo su quella che è stata la distinzione fondamentale tra Trento e il Tridentismo, di quella che è stata l'impostazione apologetica, controversistica, eccetera, e quindi si è fatta anche il nome di Bellarmino. Però la continuazione di fede dal Cinquecento ad oggi, in che linea è andata? E quindi la parola biblica, la parola conciliare va letta nel periodo storico, ma letta anche nella continuità della tradizione della fede. E quindi oggi noi dobbiamo anche vedere quello che è stato la recezione positiva o negativa con i limiti, queste sono innegabili, dobbiamo essere molto concreti. Lo diceva ieri Don Roger, l'ho detto l'altro giorno alla Radio Vaticana senza nessuna preoccupazione. È indispensabile vedere però quello che è stato la maturazione nell'ambito cattolico, nell'ambito protestante e confrontarci anche, tenendo presente però anche quello che è stato il passato, quindi al tridente, lasci il frontriente, non si può minimamente ammettere. E qui Gedin, che è stato citato fortemente ieri, diceva l'epoca tridentina è passata, il periodo è diverso, oggi però la fede della Chiesa dobbiamo vederla anche in qualche modo in concreto incarnata oggi e in prospettiva per il futuro. E qui è il punto in cui non possiamo negare la infinita inesauribilità della parola di Dio, ma come viene presa? La ineffabile, anche ma ben diversa da quella che c'è la scrittura, i testi conciliari con le definizioni dogmatiche non sono testi dello stesso valore biblico, sono soltanto una formulazione, un tentativo di presentazione della fede in quel momento che non chiudono minimamente un mistero della fede. E quindi però c'è un dato di fede che va sempre più sviluppato, va integrato con tutta anche il modo come le altre confessioni cristiane hanno vissuto quel popolo, quella verità, e va aperta ancora a tutto lo sviluppo posteriore. Quindi quello mi sembrerebbe, padre Percorsa, abbiamo parlato tante volte, il punto veramente che interesserebbe vedere come oggi, da parte cattolica, da parte protestante, tenendo presenti i quattro secoli di tradizione, che se ci distacchiamo da quella cadiamo o in un fondamentalismo biblico, oppure un riduzionismo puramente di carattere storico immanente o anche di carattere puramente linguistico. Dobbiamo vedere come oggi possiamo ritrovarci insieme in una ricchezza, e allora scopriremo che anche nel problema della giustificazione è molto più quello che ci unisce che non quello che ci divide, però non la riduzione di formule evanescenti, di formule che possono avere tanti significati, sì, aperto il futuro, ma quale futuro? È veramente il futuro di Dio? È una domanda che pongo. Grazie. Mi chiamo Gianpiero Boff, vengo da Savona, ma sono insegnante qui all'Istituto di Trento, quindi sono trentino in questo. Con permissione. Il mio intervento è sollecitato da interessi, soprattutto teologici, di teologia fondamentale, e mi riallaccio particolarmente a quello che ha detto Monsignor Sartori e padre Maranzini, ai quali devo riconoscere in qualche modo anche la funzione dei miei maestri, con i quali condivido l'esigenza di fede che hanno manifestato e sottolineato, quindi credo di trovarmi in piena sintonia da questo, ma ho una preoccupazione un po' diversa. Ho l'impressione, cioè, che questo appello alla fede, alle istanze della rivelazione della parola di Dio, acquistino nel nostro discorso una valenza non del tutto convincente. Io credo che la unità, anche l'unità che padre Maranzini ha sottolineato, dobbiamo riconoscere nel corso della storia della Chiesa, nella storia semplicemente, debba essere ricercata, debba essere identificata con dei metodi scientificamente rigorosi. Da questo punto di vista io ho apprezzato moltissimo le relazioni questa mattina, che mi pare abbiano camminato davvero in questa direzione. Proprio questo ci ha aperto degli orizzonti abbastanza nuovi, ed è curioso che un metodo scientifico come quello che è stato impiegato questa mattina abbia mostrato direi maggiore apertura, quindi maggior respiro, maggiore prossimità alla fede che non un soprannaturalismo che si è tradotto in forme burocratico e determinanti, si è realizzato tipicamente nel tridentinismo. È stato peraltro proprio padre Ferrois, lo ha detto, messo anche in causa il metodo storico critico. Oggi noi ci troviamo in un momento in cui proprio l'esegesi tenta di superare questo metodo storico critico per vie varie e direi per più di un rispetto preoccupanti. Molto spesso sembra proprio questa innovazione voler sfuggire a quelle che sono sentite come strettoie, ma sono anche garanzie di autenticità di quel poco che l'esegesi storico-critica può ottenere, ma ottiene fondatamente, per sostituirla di nuovo con delle vaghezze spiritualistiche soprannaturalistiche. Ecco, io credo che questo debba essere misurato. Forse il superamento del metodo storico-critico potrebbe essere ricercato attraverso una integrazione più profonda, più aperta, più sensibile a tanti strumenti che la linguistica, le scienze antropologiche hanno realizzato, ma non a prezzo della messa in dimenticanza di quello che il metodo storico-critico garantisce. E da ultimo vorrei dire una cosina ancora. Credo che a questo punto si proponga come una urgenza della teologia fondamentale un ripensamento del discorso, antico discorso sulle note teologiche. Dopo quello che abbiamo sentito stamattina, del resto sapevamo già in altri modi, non è più proponibile il discorso passato. Questa riflessione deve acquisire tutto quello che è stato detto. Deve ancora far conto, io credo, di questo. Oggi le forme della comunicazione sono profondamente diverse da quelle del passato. Credo che proprio a questo livello, quindi anche nel modo della comunicazione alla fede, e le note teologiche sottolineano proprio questo aspetto, deve integrare il nuovo modo della comunicazione, altrimenti l'equivoco nel quale noi stiamo già ormai vivendo e forse stiamo soffocando si aggraverà ancora. E questo potrebbe essere un discorso che proprio sulla scia di questa spinta anche l'Istituto Teologico di Trento può continuare. Grazie. Chi altri? Avanti, proprio per vedere i fiori, diremo così, le gemme preziose che nella Chiesa, ecco, queste persone meravigliose, queste persone nella Chiesa hanno incastonato come gemme. Perché se, ripeto, seminario di Cremona, seminario di Mantova, senza poi il palazzo vescovile, il Duomo di Mantova, ecco, io mi chiudo e credo di aver detto sufficientemente perché abbia, diremo così, abbia potuto esprimere e far capire come certe cose vanno ricordate come insegnamento. Grazie. Grazie a te. Chi altri? Ma si può chiamare qualche duro, non so, Vittorio Veri, mi piacerebbe sentire. Beh, qualche cosetta puoi dirla, no? Come? Ci sono tanti giorni. Allora? No, io non c'è, no, non c'è altro che intervenire. Vorrei dire io due parole. Tanto non credo che... Ma mi rilascio ancora se rimando, la domanda è questa, perché si voleva essere aiutato a Vittorio Veri, ma comunque sia, è un angolino molto discreto riguardo appunto Seripando, perché quegli aspetti del concilio che non si traducono in protocolli, in una codicistica, diciamo così, ma che però ovviamente sono tante. Le domande che stavano a cuore a Seripando, che al suo caro amico che lavorava lì come primo custode della Biblioteca Vaticana, Sille, dove sta la Chiesa greca? Dove sta l'Oriente cristiano? Io ho letto, la mattina non lo so, l'abbiamo letto insieme a Salerno, le prediche sul Paternostro di Seripando. Seripando arriva a porre il problema per la Chiesa, è stata più importante, più grave, la perdita del nord o la perdita e Palermo, di Antiochia, Alessandria, Gerusalemme e in ultimo Costantinopoli. Così indicando come se fossero mancate a un certo punto delle risorse profonde alla Chiesa. E poi fa questo ammonimento. Cosa succede? Cosa succede adesso che noi abbiamo perduto l'Oriente cristiano? Non abbiamo più rapporti con... abbiamo tagliato fuori la Chiesa greca, nonostante i tentativi poi di recuperare, eccetera. Questo è un altro discorso. Che cos'è, dice? Qual è il nostro destino? Definite di essere, dice esattamente, una Chiesa settentrionale. Questo nel testo, se predica sul Paternostro di Seripando. Quindi c'è la presenza di un concilio di Trento che operava nei limiti di una lacerazione storica molto profonda. Quindi io direi che una chiave di lettura è certamente non tanto quella di una, non solo quella, diciamo così, di una certezza teologica da cercare, ma guarda, quella appunto invece di una inquietudine profonda per quella che poteva essere da quel momento il destino e la sorte di una Chiesa, la cui universalità era il suo principio, il suo fondamento. Questo era il problema che volevo sollevare. Allora, sì, non so se è una risposta è una, allo stesso tempo già una reazione ad alcuni punti. Una prima cosa che a mio parere dovrebbe essere chiarificato in contesto del Cinquecento e del Concilio di Trento è di valutare criticamente quella tesi che è stata lanciata da Josef Lorz e che dopo è stata ripresa pure da Medin, ed è quello della cosiddetta theologische Unklarheit. È una tesi che noi facilmente usiamo, ma che potrebbe essere sottoposta a qualche riflessione e forse riconsiderazione. Dunque questo mi sembra un punto, perché e questo sarebbe collegato con questo punto, mi sono occupato, mi sto sempre un po' occupando di un teologo pretridentino che si chiama Giacomo Jacobus Latobus Romaniensis, che in una, adesso è stato pubblicato sfortunatamente nella mia lingua materna, che è il neerlandese, neerlandese, un libro che, nel quale si studia la relazione fra la disputa fra Latobus e Erasmo sulla critica che la scolastica, Latobus essendo rappresentante allora della scolastica, ha fatto dunque di dell'umanesimo nei suoi trattati contro Erasmo. E allora si arriva ad un punto che a mio parere potrebbe essere interessante per quello che viene, e dunque il peso della scolastica, perché lui mostra dunque che proprio Latomus, che non ha avuto un grande influsso sul Concilio di Trento, ma può servire un po' da rappresentante di una certa teologia, dunque non trova, favorisce la scolastica, perché è proprio non un clare, ma perché è clare, è una teologia chiara che ha trovato tutte le buone parole, che lui dirà la Bibbia è un clare, è la patristica che è un clare, ma la scolastica ha trovato le definizioni necessarie. E allora mi domando, passando adesso al Concilio di Trento, e forse per la nostra ermeneutica odierna, se non si dovrebbe, forse è stato fatto, ma studiare il peso della teologia scolastica sulla teologia tridentina del Concilio di Trento. E dunque che allora si arriva ad un'opposizione o un'attenzione fra la scolastica e la teologia, tra parentesi, teologia umanistica, di tipo umanistica, direi, penso che hai rasso qui. E allora si arriva forse a tutta una la tridentinizzazione neoscolastica e tutto quello che segue in tutte le scuole che vengono immediatamente dopo il Concilio. E allora naturalmente veniamo a un altro punto oggi che potrebbe favorire il dialogo ecumenico, è quello della crisi e della critica da parte della teologia protestante e cattolica adesso di questa rigorosità scolastica per una teologia più patristica, biblica, esistenziale, le parole sono quelle che sono, ma bene, dunque che allora sarebbe da collegare questa nuova ermeneutica ecumenica pure con l'evoluzione dei metodi teologici. Questo mi sembra un punto che sarebbe almeno da considerare. Un altro punto che non è immediatamente collegato con questo è naturalmente, e forse che è collegato, è che nella teologia talvolta si soffre, e questo mi sembra abbastanza chiaro nella risposta della congregazione, fra una opposizione, una separazione fra Papa Giovanni Paolo è un po' colpa, penso, tra sostanza e espressione. Perché di fatto dove si va a prendere quella sostanza eterica, questa verità, non so, trascendente che nessuno può capire, perché c'è una bipolarità sempre di nuovo fra il senso, la verità, di una parte non mai da avere nudo, diciamo isolato dal resto, è una espressione, dunque c'è una bipolarità che passa dall'uno all'altro, che non è identica, ma che passa, non c'è espressione senza verità, senza espressione, speriamo che non c'è espressione senza un'intenzione, verso un trascendente. Dunque queste due mi sembrano molto importanti. Allora si può combinare il senso, la ricerca del senso, del trascendente, con una rigorosa accettazione della storicità, i due non si oppongono, sono in un movimento costantemente circolare. Storicità può dire senso, ma senso espresso è senso storico. Per quello sono alcuni elementi che volevo aggiungere, non so se sono risposti, almeno sono forse aggiunti. Grazie. Sono grato a chi è intervenuto, non credo sapere di dare delle risposte, ma appunto di aggiungere semmai altri motivi di riflessione. Credo che l'uso del metodo storico critico su cui più di uno si è soffermato non vada né impostatizzato né accantonato, credo che non vada impostatizzato, certamente né maggiorato. Non si può chiedere al metodo storico critico di autenticare i significati, ma sicuramente gli si può chiedere di autenticare ciò che è accaduto, e pretendere di costruire significati a prescindere di ciò che è accaduto è l'ideologia della peggio specie, evidentemente. Se talora non pochi teologi magari sono tentati di procedere in quel modo. E credo che un certo rischio ci sia anche nel movimento ecumenico. Molte delle cose che per cosa ha detto, ci ha dato, sulle quali riflettere, mostrano una accezione del Concilio di Trento nel in gran parte, non in tutti, ma in gran parte dei testi che lui ha citato, una cognizione abbastanza rozza, abbastanza grossolana, abbastanza per sentito dire. Ecco, lui è stato abbastanza delicato, non dirlo direttamente, mi permetto di dirlo direttamente, è sconcertante questa rozzezza. Direi che in quasi tutti i testi, salvo di quelli che lui ci ha ricordato, salvo il testo di Dom, ecco, è veramente abbastanza impressionante. Non per rivendicare nessuna priorità dell'approccio storico critico, ma per dire che non se ne può fare a meno, non se ne può prescindere, a pena di incorrere appunto in grossolanità che non aiutano, ma anzi, appesantiscono. Perciò credo che il servizio che si può rendere anche un colloquio come questo, è appunto di storicizzare tutto il riferimento, tutti. Naturalmente oggi insistiamo sulla storicizzazione del Tridentino, perché questo è il nostro oggetto di discorso, ma credo che sia altrettanto importante la storicizzazione dell'esperienza di Lutero, della predicazione di Lutero o del Vaticano II. Credo che, certo, la fatica interiore, la fatica culturale, spirituale, è più forte quanto maggiore è l'affetto che ci lega all'oggetto della storicizzazione. Questo è ovvio, naturalmente, ma questo non ci esime da un impegno in questa direzione. Sono grato anche al vescovo e collega Müller per aver posto, rievocato quello del rapporto tra Trento e Roma, tra Trento e il Papa, tra Trento, tra il Concilio di Trento e la Curia Romana. Lui ha voluto sottolineare la maggiore interiorizzazione che dell'esperienza conciliarista sia fatta nella cultura tedesca, possiamo aggiungere tranquillamente, nella cultura gallicana, nella cultura anche inglese, di quanto non fosse avvenuto nella cultura italiana. Io credo che sia vero, aggiungerei da un lato che è vero, ricordo di averlo anche scritto tantissimi anni fa parlando della partecipazione italiana al Concilio di Trento, come negli ambienti italiani si credesse pochissimo al Concilio. E io credo che si potrebbe anche spingere un po' più avanti questa constatazione e vederci l'esperienza ravvicinata della forza del papato, della Curia Romana, forse in termini politici, ecco, tale che lasciava ben poche speranze della capacità di un concilio, di qualsiasi concilio, di riuscire a condizionare effettivamente quella forza. Certamente questo è un elemento profondamente presente negli ambienti dell'evangelismo italiano, forse molto più che in altri ambienti cristiani dei medesimi anni. Però forse c'è anche da tener conto, da chiedersi in che misura c'è anche una percezione analoga negli ambienti umanistici. Cioè, se in fondo il conciliarismo in questi anni, prima metà del 1500 soprattutto, ecco, è piuttosto una, fa parte piuttosto della cultura tardo medievale che non della nuova cultura. Questo non vuole in nessun modo essere un criterio per dare per distinguere tra buoni e cattivi. È semplicemente un tentativo di riflessione sulla diversa affidamento che alla lotta di tipo conciliarista si faceva in ambienti di cultura umanistica più evoluta o in ambienti più ancora legati, malgrado tutto, alla tradizione, alla grande tradizione medievale. Quanto poi al rapporto concreto tra il Concilio di Trento e Roma, certo la suggestione evocata da Sarti, dello Spirito Santo che viaggia con la valigia diplomatica tra Trento e Roma, è talmente affascinante che è difficile da scolarsela di dosso. Però ecco, io credo che poi, se si fanno i conti in concreto, solo sappiamo benissimo di quanto questi poveretti che erano venuti a Trento nel 1545 si chiedevano quasi ogni giorno se in realtà non si erano giocati il loro destino, perché avevano l'impressione che Roma fosse molto più disposta a penalizzare chi era venuto al concilio che non a valorizzare. E questo non è certamente nel senso di una, come dire, sintonia tra concilio e papato, perché sappiamo benissimo che la principale palla al piede del concilio di Trento è stato che sono fatti i papi sistematicamente, e quando il concilio era aperto e quando il concilio è stato chiuso perché il papa non lo voleva più. E in terzo luogo perché certamente, se volessimo tentare, si capisce che per uno storico è sempre un'operazione sconsigliabile, ma se volessimo per un istante far finta di simulare, se a Roma si sarebbero elaborati i decreti del concilio che sono stati elaborati a Trento, io credo che non si fa dell'avventura, dell'avventurismo, dicendo che no, che almeno l'80% di quello che è stato approvato a Trento non sarebbe stato approvato a Roma. Questo naturalmente non nega che poi Pio IV fa quell'atto di coraggio e approva integralmente le decisioni di Trento. Ma se l'avessero dovute elaborare a Roma, credo, ripeto, stiamo viaggiando sulle nubi, però ecco, se può servire per un momento una fantasia di questo genere, una fantasia sconsiderata di questo genere, forse ci aiuta a capire che la sintonia tra il concilio e il papato certamente c'è. Potremmo fare esempio a rovescio, no? La traslazione a Bologna. Certo, la relazione a Bologna, come tanti, sono anch'io convinto che è fondamentalmente imposta col tramite di Cervini da Roma, e tra l'altro si è mostrata appunto uno degli errori, perché veramente ha rischiato di affossare il Concilio. Perciò ci sono sicuramente aspetti della vita del Tridentino che sono determinati da Roma, ecco. Ma o con dei prezzi molto alti, spesso, come in questo caso della donazione a Bologna, o con un rifiuto. In fondo, sempre quella vicenda molto, molto interessante, ecco, di questa formulazione sul primato inviata a Trento, e che i legati non hanno neppure creduto di mettere in discussione. Certamente, malgrado appunto la proposta romana potesse vantare il precedente della clausola finale del decreto dell'Unione di Firenze. Perciò questo non voglio inventare un concilio di Trento antipapale, non vorrei essere frainteso, ecco, per carità. Ecco, ma non vorrei neppure che si accettasse troppo facilmente una, ecco, quell'immagine, ripeto, affascinante, ma non del tutto fondata, che Sarpi ha proposto. Io sì, sono ben convinto che Trento faccia parte del tesoro della tradizione cattolica romana. E sono convinto come tanti, come forse tutti presenti, che il movimento ecumenico e le prospettive di una unione tra i cristiani non solo non debbano prescindere dai tesori delle tradizioni confessionali, ma al contrario, A un certo momento, se ci spossessassimo, se volessimo rinunciare per un malinteso irenismo a questi tesori, ci troveremo povera gente. Ecco, polvere che non sale, non interessa più niente a nessuno. Ecco, il valore delle esperienze confessionali, che qualche volta siamo un po' disinvoltamente portati a mettere in un segno negativo, hanno invece anche un altro segno positivo, perché è proprio la valorizzazione di dimensioni cristiane. Certo, non di tutto il cristianesimo, ma di dimensioni cristiane importanti. Io credo che tra l'altro anche questa, ecco, del papato, ma tante altre, sono valori e forze della tradizione cattolico-romana. Il dramma è quando si pretende la assolutizzazione di questi elementi, o quando si vuole negare la loro componibilità con altre ricchezze di altre tradizioni confessionali. E qui certamente la povertà, che non tutti, anche se qualcuno di più di Seripando ha avvertito qui a Trento allora della lontananza dell'Oriente cristiano, è sicuramente un problema. Credo che sia il metropolita Maschinosa, sia Vittorio Peri ne parleranno con ben maggiore competenza e conoscenza, ecco, però certamente ricorre ogni tanto nei dibattiti tridentini, questo è un altro di quei di più, che non si trovano nel corpus delle decisioni, ma che erano ben presenti nello spirito del Concilio, e ogni tanto qualcuno si alza e dice: ma teniamo presente, poniamo durante il ricordo del dibattito, ad esempio, sul sacramento della confermazione, teniamo presente che c'è un'altra tradizione, diversa da quella occidentale, che è quella delle chiese orientali. Cioè, e c'è anche a un certo momento la risposta che viene data dai legati, che si preoccupano di precisare che ciò che il Concilio deciderà riguarda solo la Chiesa latina e non le Chiese dove. Che poi anche questo si è tendenzialmente perso, però sta, è facilmente riscontrabile nelle fonti conciliari. Perciò credo sia stato molto utile da parte di De Rosa evocare anche questa dimensione. Vorrei dire ancora una parola sul problema dell'omicidio cunclarale, perché credo veramente che sia un nodo di grande importanza e che ci trasciniamo dietro, non solo riferita alla situazione pre-trentina, ma anche riferita alla nostra situazione attuale. In fondo questa cosa va molto bene a, come dire, mettere in parallelo la teologia cunclarale e la chiarezza scolastica, che è il grande vasto, certamente, della teologia scolastica. Ecco, che si può dire così, perché questo è il modo in cui gli scolastici si presentano. Io preferirei parlare poi di una teologia di essenze, ecco, di una teologia che in realtà, ecco, finisce per come dire, rinsecchirsi in formule essenzialiste. Ed è qui che si può vedere meglio la ricchezza della come dire, non chiarezza teologica, pretesa non chiarezza teologica. E a me è sempre